La tendenza degli ultimi anni è quella di progettare e lanciare sul mercato scooter sempre più ingombranti e performanti. Unica pecca, oltre ai prezzi sempre più alti, sono le eccessive dimensioni che rendono questi scooter troppo lenti nel traffico cittadino. A questo trend si oppone Peugeot Motorcycle, con la gamma Geopolis, di cui è stato presentato giovedì il modello 500, oggetto della nostra prova. Il Geopolis 500 è anch'esso di alta cilindrata, ma di dimensioni assai ridotte e con buona capacità di carico. Nome: Peugeot Geopolis 500. Motore: Piaggio monocilindrico a 4 valvole, raffreddato a liquido. Potenza: 37,4 cavalli. Velocità massima: 160 km orari. Consumo medio: 4,5 litri ogni 100 km. Capacità serbatoio: 13,5 litri per un'autonomia di circa 300 km. Ruote: anteriore da 16 pollici, posteriore da 14 pollici. Freni: all'anteriore due dischi da 263 mm, al posteriore un disco da 220 mm. Prezzo: 5.500 euro, IVA inclusa.